La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. La storia di oggi è quella di Emanuele Salce, figlio dell'attore e regista Luciano Salce e di Diletta D'Andrea. È un bambino di poco più di 2 anni quando i due genitori decidono di separarsi. Diletta sposerà Vittorio Gassman, altra figura forte e di riferimento per Emanuele. Uomini di enorme talento, ma che faticano a mettersi in gioco come genitori, dirà lo stesso Salce, figure che faranno crescere Emanuele in una dimensione di surrealtà. Drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory... Emanuele Salce, lei è a teatro con Muble Muble, ovvero Confessioni di un orfano d'arte. Questa settimana fino al 24 siete a Roma, poi però ho visto che il calendario continua in tutta Italia, è così? Beh, facciamo un piccolo giretto, fortunatamente con le nostre difficoltà, riusciamo ad andare a Firenze, Pontarera, Livorno, poi a Pavia, sì, facciamo un piccolo, insomma, riusciamo a portarlo da qualche parte, questo sì. Questo perché sì. Dice nonostante le difficoltà? Beh, perché insomma, il momento culturale italiano, teatrale, è abbastanza in difficoltà, chiaramente, quindi ne risentiamo anche noi. In più siamo anche, devo dire, allegramente penalizzati dal titolo dello spettacolo che scoraggia, diciamo, gli spettatori quantomeno meno avveduti che, cioè, leggono Confessioni di un orfano d'arte e pensano, alcuni vedendo la locandina proprio fanno anche degli scongiuri, si toccano, ma quindi è uno spettacolo che la gente apparentemente non viene a vedere ma viene a rivedere, cioè io ho casi di persone che vengono a vederci per la quinta volta. Ma uno che non l'ha mai visto e che vede il titolo, non conoscendo me, e il titolo un po', insomma, scappano anche, alcuni fanno anche degli esorcismi, insomma, ci sono delle strane reazioni. E allora ci può raccontare un po' lo spettacolo, così magari qualche nostro ascoltatore si converte? Insomma, è il piacere di raccontarsi senza autocelebrarsi, Dio ce ne scampi. C'è uno spettacolo autolesivo, assolutamente, in cui io racconto, è uno spettacolo che fondamentalmente nasce per caso. Cioè doveva essere una serata fra amici in un teatro estivo all'aperto e fare proprio una serata che però poi saltò e fui promesso in una piccola rassegna teatrale che si chiamava Liberi Esperimenti Teatrali e da lì è nata la piccola avventura di questo non so appunto se definire lo spettacolo di questa piccola cosa che poi è diventato uno spettacolo e che ormai gira da 5-6 anni in piccoli teatri in giro per l'Italia. Siamo circondati da una nicchia affettuosa di amici che va allargandosi fortunatamente e parla così della vita mia, ma che poi riguarda tutti quanti, di accadimenti che ci riguardano tutti. È uno spettacolo che è fatto con grande sincerità, con grande onestà e credo con una certa ironia dissacrante, perché insomma, l'importante è non prendersi sul serio, ma restando seri e possibilmente ironizzando, che è una delle cose più serie che ci sia. Lei di fatto nello spettacolo però affronta soprattutto la figura paterna, perché poi le figure di cui lei parla sono suo padre, Luciano Salce, e poi anche quella di Gassman. Allora io direi, se a lei va, mi piacerebbe che lei ci raccontasse quali ricordi ha di suo padre. So che comunque ha avuto poco modo di frequentarlo, però credo che in ogni caso ci sia stata questa presenza e abbia lasciato un segno. Certo, io nello spettacolo in realtà non parlo moltissimo di loro, che so ci sarebbe proprio il rischio di essere autonarrativi, faccio un accenno così tanto già la gente più o meno sa chi erano. Io racconto due episodi che li riguardano, cioè il giorno in cui sono venuti a mancare, che nel caso di mio padre avveniva 26 anni fa, 27, e nel caso di Vittorio un 15-16 anni fa. Racconto quelle due giornate lì, dal mio punto di vista, nella prima quella di mio padre ero molto giovane, e ho vissuto la cosa in maniera più traumatica, anche perché ero reduce da un sabato sera etilico, diciamo, quindi al risveglio del mattino dopo 2-3 ore mi trovo coinvolto a dover gestire questa cosa assolutamente più grande di me, e io ero abbastanza sprovveduto e soprattutto solo, perché mia madre, sposata allora già con Vittorio, era a Cuba, quindi un pochino fuori mano. Terribile, quanti anni aveva lei? Avevo 22-23 anni, era il 1989. E poi mi trovo invece in quello di Gassman 10-11 anni dopo, quindi diciamo con una certa esperienza nel campo, insomma, perché ero stato promosso ma col 36, diciamo, insomma, all'uto di mio padre, quindi mi sono trovato a un vero e proprio esame di maturità in quello di Vittorio, che fu completamente diverso. Invece eravamo tutti a Roma e fu un funerale quasi in pompa magna, no? Cioè vennero i politici, i religiosi, venne qualsiasi cosa, e anche dei presidenzialisti. Racconto un po' questo carnevale del sacro e del profano intorno al feretro, che diventa poi anche un fatto, se vuoi, di costume sociale, quasi di diamo da Vittorio, stanno tutti là, insomma, un po' come... Racconto, è anche il giorno in cui c'è un'importante partita di calcio, perché ci sono gli europei del 2000, l'Italia gioca contro l'Olanda, la semifinale, e quindi si comincia a vedere tutto, anche la partita col cadavere morto, insomma, quindi racconto questo dissacrando, ma raccontando in realtà la verità. Per me piaceva raccontare e celebrare e ricordarli con affetto, anche forse nell'unico episodio che loro non hanno potuto raccontare. Senta, da questa intervista si capisce che lei è una persona estremamente ironica, e io le volevo chiedere se ci sono dei ricordi. Io credo che lei, avendo avuto queste famiglie e avendo vissuto in questo ambiente, abbia molto da raccontare, anche probabilmente momenti di grande surrealtà. Ci sono dei ricordi che ha proprio... Io erano proprio delle famiglie surreali, o meglio, non erano delle famiglie, erano altro, erano così, insomma, già la materia prima si prestava, sì, dice lei. Io nel mio monologo così racconto affettuosamente all'inizio, ecco, in quella parte in cui le ho accennato, che sorvolo un po', ma io dico che loro, ecco, avevano altri talenti, ecco, diciamo, e noi a tutt'oggi ricordiamo con grande affetto e ammirazione per i grandi artisti che sono stati, diciamo, poi, cioè, in quanto genitori hanno dovuto sacrificare qualcosa delle loro energie, delle loro possibilità. Però insomma sono state sicuramente due persone, magari anche indirettamente, che però hanno offerto degli spunti, e questo sì, questo non c'è dubbio, ma anche proprio a livello anche di umanità, di ironia. Vittorio anche era molto ironico, ma non lo sapeva fino a che non è entrato nelle sue depressioni e non gli si è un po' scardinata, diciamo, la corteccia e la corazza gasmagnana, sotto la quale c'era Vittorio, che era una persona molto anche divertente, sensibile, cioè che quasi nessuno ha conosciuto, perché non voleva farsi conoscere, mentre mio padre era un uomo molto più facile fuori, ma con delle complicazioni interiori, con delle difficoltà, perché ha avuto una vita d'inferno, altro che il libro cuore, insomma, quindi mi piace omaggiarli tutti e due in un modo onesto. Questa dunque è la prima parte dell'intervista a Emanuele Salce, figlio di Luciano Salce, in tournée con uno spettacolo teatrale che racconta proprio di questa sua avventura esistenziale. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. La prima volta. Ben ritrovati alla prima volta, e l'ospite di oggi è Emanuele Salce, figlio di Luciano, cresciuto anche con Vittorio Gassman. La vita di Emanuele Salce scorre immersa dunque nel cinema, tra grandi nomi, tra questi, oltre appunto al padre e a Vittorio Gassman, anche Dino Risi, Ettore Scola, questi due tra i nomi più illustri. Ed è proprio ad Ettore Scola che Emanuele Salce dedica in questa intervista una grande e inedita, direi, dolcezza. Scola ha fatto parte della mia vita, cioè è stato il regista con cui Vittorio ha fatto un sacco di film, era amico di mio padre, prima ancora quando era sceneggiatore, anzi faceva il negro, non firmava nemmeno le cose, cioè, Ettore è stato veramente una persona sempre, ed è venuto 3 volte a vedere il mio, è uno di quelli che è tornato 3 volte, gli piaceva questo spettacolo, gli piaceva, mi ha chiesto una volta, vieni a trovarmi a casa col testo, che voglio dirti 2 cose, lo voglio rileggere su carta, perché cioè, insomma, una persona adorabile, insomma, vabbè, non devo parlare io di Ettore Scola, guardi che insomma per fortuna ho già visto sui social che c'è un affetto enorme, come è giusto che sia, insomma, viva Dio, insomma, poi ci lascia un vuoto enorme ma riempito anche di 200 belle cose che ci lascia, che è la sua opera cinematografica, insomma, per fortuna è un vuoto che lascia pieno di doni, secondo me. Qual è stato, secondo lei, il più grande talento di Ettore Scola? Mi verrebbe da dire la regia, ma Ettore era anche un intellettuale raffinatissimo, esatto. era una penna straordinaria, era un uomo di grande ironia, eleganza, aveva 200 qualità, è uno che non ha mai rotto i coglioni, insomma, che non so, di tanti che oggi hanno bisogno di affermarsi, di stare là, cioè, non era affetto da tutte queste volgarità, insomma, era per carità, era proprio l'esatto contrario, però mentre oggi viviamo una realtà dove è imperante una certa maleducazione, così che, ma anche impreparazione, ignoranza, ecco, cioè quella generazione lì, no? Io ho fatto un post oggi pensando che ci mancano Gassman, Sordi, Manfredi, Mastroianni, Tognazzi, e ci mancano Agio Scarpelli, Benvenuti e De Bernardi, e ci manca Ettore Scola, Monicelli, Risi. Allora si è chiusa una pagina, si è chiusa un'epoca, però è stata ricchissima e irripetibile, ma per Dio c'è stata, ecco, il cinema forse ha la fortuna di lasciare qualche lascito in questo senso, ma quando torneranno quelli, diciamo. Secondo lei oggi com'è il mondo del teatro? Lei prima ha detto che è in profonda crisi, ma cioè, lei in profonda che fa crisi, teatro ma scrive per... Il teatro è uno specchio del paese, è in profonda crisi questo paese, dalla quale credo che non uscirà, cioè anzi andrà sempre più in basso, anche perché noi non abbiamo le qualità per essere un paese, noi siamo un ammasso, una accozzaglia di individualisti messi assieme per caso e che non ci riescono a stare, infatti non saremo mai un paese e ci massacreremo, noi proprio non avremo le capacità di uscirne, che non siamo capaci di uscirne assieme, siamo un paese per sbaglio e spero che l'equivoco si chiarisca il momento che raggiungeremo proprio lo sprofondo, perché non vedo quale altra possibilità ci sia, è un paese che merita le macerie che ha, insomma, anche perché proprio non riesce neanche a mantenere quanto di bello c'è, pensi solo a quello che c'è di beni artistici, se noi riusciamo anche, come dire, tra virgolette affettuosamente, a cagare in testa quello che di bello c'è, e allora ci meritiamo veramente di finire giù in una cloaca, insomma. Qual è il suo sogno in ambito artistico? C'è qualcosa che non ha ancora fatto o che vorrebbe migliorare, continuare a fare? Che cosa vorrebbe continuare a fare? Tutto quello che questa professione può fare per arricchire il mio percorso umano sulla terra, che poi è inevitabile, insomma, è quello che io prediligo, cioè se tutto questo ha poi un senso per me come persona, prima ancora che per me come professionista o per chi mi viene a seguire o ha la disavventura di farlo, ecco, cioè se poi tutto questo non ha un senso per me come persona, cioè a me di essere popolare, di fare due lire, di essere riconosciuto per strada, non me ne frega niente, non mi capita, ma anche perché credo che di non averlo mai perseguito io. Certo, se l'avessi perseguito oggi avrei più possibilità per fare queste cose qua, è sempre una cosa, no? Che contrasto con l'altro, che vanno di pari passo, non si può neanche essere troppo elitario, troppo chiusi, perché poi lo paghi a tua volta, è sempre un compromesso. Spero sempre di migliorare con me come persona, perciò se questa professione e ha questa possibilità insita in sé, mi può dare qualcosa come individuo di sensato, ben venga, e questo ricerco io. Lei è sposato, ha figli, a... No, io sono uno dei rapporti travagliati, come sempre, insomma, non so perché ho questa condanna, quindi di cui probabilmente sono anche molto responsabile. Insomma. Ed è, crede, collegato al fatto che magari si è sentito anche un po' solo? Non c'è dubbio che io sia portatore sano delle mie ferite, dei miei conflitti, e certo. E se posso aver risolto parte di quelli, ne ho altri, cioè, insomma, magari non farò gli stessi errori che sono stati compiuti con me, ma farò tutti gli altri, quindi insomma non c'è alcun dubbio. Un'ultima domanda che le volevo fare era quanto ha influenzato la sua scelta così di percorso artistico la figura di suo padre, cioè se... Ma no, sono stati due deterrenti, sia quella di Vittorio che di mio padre. Io ho cominciato questa professione alla soglia dei 40 anni, in tempi non sospetti, quando tutti erano morti e sepolti e forse in parte quasi dimenticati. È una scelta mia, proprio è stata una scelta di lucida follia, di lucida, non so come definirla, incoscienza, ecco. Però proprio una necessità invece di andarmi a confrontare con certe mie zone morte, zone irrisolte, di andarmi a stanare in un certo qual modo, insomma, e di qui, se vuole, mi riallaccio al discorso di prima della valenza terapeutica insita in questa professione, nella quale uno può andarsi a cercare e a snidare, oppure nella quale ci si può inguattare per sempre e non uscirne mai. E artisticamente hanno la stessa valenza, cioè può essere un artista bravissimo in entrambi i casi, no? Non è che uno è meglio o uno è peggio, ma l'essere umano che abita quei personaggi invece, quello sì, ma però quello attiene a una scelta personale. Ma quando era ragazzino cosa sognava di fare? Io? Sì. Quando ero ragazzino già mi ponevo il problema del fatto che non sapessi cosa volessi fare grande. e questo Fantastico. Perdura, questo permane, ero già schiacciato da questa angoscia, cioè, ci convivo da allora, diciamo. E che altri lavori ha fatto oltre all'intellettuale? No, io ho fatto l'edilista autocommiserante che veniva scambiato per un intellettuale, ma soprattutto ho fatto il nulla facente in una certa fase della mia vita, ma ho fatto l'assicuratore, mi sono iscritto a 3 facoltà universitarie, ho fatto il militare di carriera, ho fatto un corso per diventare pilota, ho fatto tutto quello che potevo fare pur di sfuggire dalle cose da cui avevo paura. Mi raccontavo delle storie vivendole, insomma, cercavo di incarnarle cercando una verità che non c'era. E oggi con i ragazzi di oggi è generoso, avendo vissuto anche lei questi conflitti, sì, queste difficoltà? Sicuramente, la generosità dipende anche dal livello di energie che uno ha in quel momento. Sicuramente, ecco, quando ero militare ci sono quelli che gli atti di nonnismo presentano, quelli che cercano di far pagare agli altri i torti che hanno subiti. Sì. Ecco, io questo non potrei mai farlo, non sono capace. Ecco, io, mi piace tenermeli per me. Ecco, quindi non so se sono generoso, ma sicuramente non sono uno vendicativo, se magari ha preso 2 calci in culo che vuole subito dargli a un altro magari più debole, no, questo non potrei proprio sopportarlo. Ci fermiamo qui, la trasmissione è riascoltabile in podcast, potete venire a trovarci anche sulla nostra pagina Facebook Radio24-La Prima Volta. Un saluto a tutti e buon inizio di settimana da Cristina Carpinelli.